Buonasera a tutti, un saluto dalla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, in particolare dalla mia direttrice, la dottoressa Trevisan, che purtroppo stasera non è qui con noi perché non sta bene. Comunque vi porto i suoi saluti. Siamo qui per... Non sta bene? La direttrice. Vabbè, niente di grave, mal di stagione. Siamo qui per una presentazione questa sera, presentazione di un libro. Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine. Storia di un'adozione è il sottotitolo, e dice già molto, non voglio dire di più. Vi preannuncio solo i nostri prossimi appuntamenti, gli ultimi prima della fine dell'anno, lunedì e giovedì prossimo. Lunedì 12, omaggio a Salgari, il libro di Elsa Müller verrà presentato sempre qui. Lo stesso succederà giovedì 15 del 12 con la presentazione del libro Medusa di Luca Bernardi. Facciamo una pausa questo giovedì perché è festa e poi ci rivediamo a gennaio. Buon ascolto, lascio la parola alla signora Paola Cozza dell'AIBI, Associazione Amici dei Bambini. Grazie. Buon ascolto. Buonasera a tutti, mi presento, sono Paola Cozza e sono la referente della sede locale dell'Associazione AIBI Amici dei Bambini. Questo evento, questa presentazione di questo libro, ovviamente è scritto da un autore per noi molto importante perché è il protagonista della storia, rappresenta uno dei tanti momenti di sensibilizzazione all'adozione in genere sul nostro territorio. Io ho pensato di introdurre questa presentazione spiegando un po' alle persone che non conoscono il tema che cosa significa adottare e soprattutto cosa bisogna fare per adottare, perché tutti conosciamo ovviamente il termine adozione, però poi concretamente quello che passano le coppie per arrivare effettivamente ad accogliere un bambino nell'ambito della propria famiglia non tutti lo conoscono. Vedete sullo sfondo delle slide, ho deciso di lasciare questa grafica perché è quella che noi abbiamo utilizzato per l'Open Day alle adozioni internazionali che abbiamo realizzato nel mese di ottobre. E quest'anno l'abbiamo appunto intitolato Famiglie senza frontiere perché AIBI è un ente autorizzato alle adozioni internazionali e nello specifico noi accompagniamo le coppie che vogliono adottare un minore all'estero. Ascolteremo da Tommy sempre una storia di adozione che però invece ha una caratteristica principale perché si tratta di un'adozione avvenuta sul territorio nazionale. Allora, innanzitutto chi è Amici dei Bambini? Amici dei Bambini è un movimento di famiglie che, avendo accolto all'interno della propria famiglia un minore in stato di abbandono, hanno deciso di costituire nel lontano 86 questa associazione che era comunque operativa già dall'83 per mettere a disposizione di tutte le coppie che desideravano intraprendere questo percorso quella che era la loro esperienza e soprattutto le loro conoscenze fino ad allora. AIBI poi si è ingrandita, nel frattempo è diventata uno degli enti più grandi e ad oggi è una ONG internazionale presente in Italia e all'estero in circa 30 paesi nel mondo e in Italia anche con sedi sparse sul territorio nazionale, punti informativi e spazi famiglia. Di cosa ci occupiamo nello specifico? Ci occupiamo di tutto ciò che direttamente e indirettamente è legato alla nostra mission, che è quello di dare ad ogni bambino abbandonato una famiglia e garantire il suo diritto ad essere figlio. Quindi cerchiamo di passare da quello che può essere giustamente insomma il desiderio di una coppia di avere un bambino a quello che invece deve essere il diritto primario di ogni bambino a sentirsi figlio all'interno di una famiglia. Nell'ambito delle nostre attività, oltre all'adozione internazionale, ovviamente ci occupiamo anche di cooperazione internazionale e progetti di emergenza umanitaria, perché in tutti i paesi in cui opera AIBI, al di là del percorso adottivo, cerchiamo di sviluppare una cultura dell'adozione anche nei paesi di origine dei bambini, intervenendo con dei progetti di supporto che vanno dalla formazione degli operatori addetti alla tutela del minore alla ricostruzione di istituti o all'apertura di case famiglia. In Italia anche non possiamo non occuparci dei nostri bambini presenti sul territorio nazionale e che possono trovarsi in situazioni di difficoltà familiare, e quindi ovviamente ci occupiamo anche di affido, accompagniamo le famiglie disponibili ad aprirsi all'accoglienza di un minore attraverso l'affido anziché l'adozione, e abbiamo quindi anche aperto delle strutture. Ovviamente il nostro sogno di me e Michela è quello di poter realizzare tutto ciò che viene realizzato a livello nazionale sul nostro territorio. La strada è un po' lunga, però insomma cercheremo. In altre parti d'Italia abbiamo aperto delle case famiglia, quindi abbiamo delle meravigliose coppie che, oltre ad avere dei figli propri, naturali, adottivi, hanno deciso di accogliere anche altri minori fino a 6 all'interno della propria casa. E poi non potevamo chiaramente non pensare alla prevenzione del disagio sociale, per cui comunità mamma bambino o appartamenti ad alta autonomia, che sono rivolte tutte a quelle situazioni di fragilità che potrebbero indurre una mamma ad abbandonare il proprio bambino. Ovviamente non possiamo rimanere insensibili all'emergenza profughi che sta interessando il nostro territorio nazionale, e quindi anche qui, soprattutto in Sicilia, abbiamo sviluppato una serie di interventi soprattutto per le mamme con bambini molto piccoli o in stato di gravidanza, e soprattutto rivolte ai minori non accompagnati. Anche qua siamo un po' fermi, non per nostra volontà, non abbiamo grande spazio per poterci muovere sul campo dei profughi, però vediamo, insomma, il futuro ci può riservare sempre delle sorprese. Allora, cerchiamo di condurvi un po' nel mondo dell'adozione, sia nazionale, ho scritto nazione, ma sarebbe nazionale e internazionale. Normalmente parliamo sempre dell'adozione internazionale, però ripeto, l'occasione di questo libro è importante invece per parlare un po' di entrambi i percorsi. Innanzitutto, l'adozione significa principalmente diventare madre e padre di un figlio non proprio, e la nostra legge prevede che in seguito all'adozione di un bambino ci siano delle conseguenze per il bambino, che acquista a tutti gli effetti lo status di figlio legittimo, quindi perde il legame giuridico con la propria famiglia d'origine, acquisisce il cognome dei genitori adottanti e entra nell'asse ereditario esattamente come un bambino procreato naturalmente. Ho lasciato il concetto della sussidiarietà, che in questo caso viene richiamata principalmente a livello internazionale, guiderebbe l'adozione internazionale, ma è sicuramente un principio che anima anche l'adozione sul territorio nazionale. Quindi l'adozione in genere in Italia e all'estero dovrebbe avvenire, deve avvenire quando viene rispettato il principio di sussidiarietà, che significa cercare di aver trovato tutte le soluzioni possibili per fare in modo che quel bambino potesse rimanere all'interno del proprio nucleo familiare d'origine, e quando questo non è più possibile, ovviamente per garantire sempre il diritto di essere figlio e di avere una famiglia, si pensa e si passa, diciamo, all'adozione. I numeri in Italia anche in questo caso riguardano principalmente l'adozione internazionale, si è ridotto di molto, questi sono gli ultimi dati che abbiamo ricevuto dalla nostra commissione adozioni internazionali, ci sono circa 2500 coppie che si rivolgono all'adozione. Tenete presente che ogni coppia può liberamente, quando inizia il percorso, decidere di aprirsi tanto all'adozione nazionale quanto all'adozione internazionale e poi durante il percorso optare per l'una o l'altra scelta. Molto spesso quello che si sente dire è sì, ma con tutti i bambini che ci sono sul nostro territorio bisogna proprio andare all'estero a prenderli. Allora, la verità è che purtroppo c'è stato un grande calo, ma perché sono venute a mancare tutta una serie di politiche, però la verità è che il numero delle coppie che si rivolge all'adozione internazionale supera di gran lunga il numero dei bambini che a livello nazionale sono già dichiarati adottabili, quindi non che vivono in un istituto, perché lì i numeri sono più alti, ma potrebbe essere un collocamento temporaneo e si spera in alcuni casi veramente ridotto nel tempo, ma quelli che hanno proprio una decisione da parte del Tribunale dei Minori dove c'è scritto il bambino effettivamente può essere adottato. Per quanto riguarda la nostra provincia di Bolzano, anche qui l'occasione, diciamo, per spendere un po' due parole su quella che è la nostra situazione, in realtà le domande, adesso vedrete la differenza con l'adozione internazionale, le domande sono altissime per quanto riguarda l'adozione nazionale, quindi diciamo che di tutte le domande l'85% riguarda soprattutto l'adozione nazionale e riguarda soprattutto coppie residenti non nella nostra provincia. Questo accade perché sempre secondo la nostra legge ogni coppia può presentare domanda di adozione anche in tutti i 21 tribunali dei minori d'Italia e quindi per questo motivo quando si vanno a chiedere quante coppie in attesa ci sono, di fatto il dato è 100, 200 e parliamo di Bolzano, ma in altre regioni parliamo di 1000 anche, ma in realtà sono coppie che hanno presentato la domanda negli stessi tribunali e quindi è una domanda un po' che si ripete nel tempo. Però dai decreti di adottabilità e di adozione vedete che poi effettivamente, a parte l'eccezione del 2012 e del 2014, mediamente il numero dei bambini che sul territorio italiano possono essere adottati a livello nazionale è veramente molto molto basso e si attesta intorno ai 7-8 minori mediamente all'anno. Quindi ovviamente con 200 coppie in attese non si riesce chiaramente ad aiutare queste famiglie a diventare nucleo. Per quanto riguarda invece l'adozione internazionale, vedete che qui le cose si riducono drasticamente. Diciamo che nel corso dell'anno, mediamente nella nostra provincia di Bolzano, un numero che si attesta tra le 24-25 unità massimo di coppie presentano domande di adozione internazionale. Questo è un dato che è costante da molto tempo, era un po' più elevato, diciamo, prima del 2010 ed è un dato che a me e Michela, che insomma siamo sul territorio e lavoriamo su questo campo, ci fa sempre un po' pensare, perché non riusciamo, abbiamo fatto delle valutazioni, però effettivamente il numero è veramente molto basso rapportato alla popolazione. Siamo 400.000 circa in Alto Adige, se togliamo anziani, bambini, più o meno, no? Anche su, vogliamo ridurre la nicchia di 100.000 coppie, 24 rimane comunque un numero basso. In più aggiungo, non l'ho inserito nella slide, che invece al contrario Sappiamo che il numero delle domande per iniziare un percorso di inseminazione artificiale, comunque di procreazione assistita, sempre in Alto Adige raggiunge le 1000 domande l'anno, e di questi 1000 circa 600 coppie provengono dalla provincia di Bolzano. Sappiamo anche che poi la percentuale di successo nel poter, insomma, avere un figlio naturalmente si attesta intorno al 20%, per cui c'è sempre un gap di 300-400 coppie che effettivamente forse non fa quel passo in più o non ha quell'apertura in più per pensare appunto magari di accogliere all'interno della propria famiglia uno di questi bambini, che insomma rimangono bambini e sono tanti davvero, e sarebbe più giusto insomma dargli una famiglia. Brevemente, e poi chiudo, quali sono gli attori del percorso dell'adozione internazionale? Sicuramente il bambino, sicuramente la coppia, ma questi, diciamo, i due protagonisti principali devono tuttavia avere a che fare con tanti servizi. È un po' questo quello che si denuncia anche da un certo punto di vista: l'adozione è lenta, è difficile, è complicata. È anche vero che insomma decidere di affidare dei bambini in stato di abbandono a degli adulti comporta necessariamente un minimo di valutazione, un minimo di approfondimento. Quindi il percorso oggi per entrambe le tipologie di adozione, quindi sia che uno voglia intraprendere il percorso per la nazionale sia che lo voglia intraprendere per l'internazionale, sono che la coppia si presenta al Tribunale dei Minori e deposita una dichiarazione di disponibilità. Sottolineo brevemente, sempre per farvi capire il significato dell'adozione, che non è una domanda di adottare un bambino, ma è una dichiarazione dove la coppia si mette a disposizione di un bambino che non ha una famiglia. E questo è stato un passaggio anche importante raggiunto giuridicamente quando c'è stata poi la riforma, la prima riforma della legge sull'adozione internazionale, dove si è, chi si occupava di adozione, insomma, si è battuto per raggiungere questa coppia. Non è la coppia che ha diritto ad un bambino, ma è un bambino che ha diritto ad una mamma e ad un papà. Comunque, domanda al Tribunale dei Minori, la legge dice 6 mesi e 15 giorni, questo significa che entro 4 mesi il Tribunale dei Minori invia la coppia al servizio sociale competente. Ogni regione è strutturata in un determinato modo per quanto riguarda il tema dell'adozione. Nell'arco di 4 mesi i servizi sociali devono redigere una relazione che invieranno di nuovo al Tribunale dei Minori, nella quale esprimeranno un parere favorevole o contrario all'idoneità della coppia, e il Tribunale dei Minori ha altri 2 mesi per emettere un decreto di idoneità. Quindi abbiamo il ruolo dei servizi sociali, che effettivamente è quello di valutare e accompagnare la coppia nell'esplorazione di questo mondo, no? Di questo nuovo mondo, perché lo è, lo sentiremo poi insomma dal protagonista principale. Il Tribunale dei Minori ha un doppio ruolo: uno unico per entrambi i percorsi, perché deve emettere poi un decreto di idoneità o non idoneità della coppia all'adozione, ma la differenza è sulla nazionale. Sulla nazionale il percorso è seguito interamente dal Tribunale dei Minori, che farà un po' quello che fa l'ente all'estero: abbinerà alla coppia un bambino stato di abbandono sul territorio nazionale, e quindi seguirà insieme ai servizi sociali il percorso dell'inserimento, del post adozione, eccetera, mentre l'ente autorizzato si sostituisce nell'adozione internazionale al Tribunale dei Minori perché segue la coppia a livello estero, quindi sui paesi d'origine, per poter individuare insieme alle istituzioni locali, eccetera, un minore straniero che possa essere abbinato. In tutto ciò, rispetto all'adozione internazionale, soprattutto in ogni paese che abbia una propria legge e soprattutto ratificato la convenzione di cui vi parlavo prima, esiste una commissione, un'autorità governativa chiamata CAI, Commissione per le Adozioni Internazionali, che oltre a tutta una serie di funzioni di promozione, politiche sociali, rapporti con i paesi stranieri, stipula degli accordi bilaterali, sovrintende all'intero sistema dell'adozione, controllando gli enti, controllando anche le procedure all'estero. Quanto tempo ci vuole per tutto questo? Questa è una bella domanda. Allora, in Italia, perché sono due periodi da distinguere ovviamente, il percorso italiano e il percorso all'estero, in Italia allora abbiamo un tempo per raggiungere il primo step, che è, noi non lo chiamiamo ogni tanto l'attestato dell'adozione, no? Perché a volte bisogna anche un po' ironizzarci sopra, però effettivamente è il tempo che la coppia deve impiegare per avere questo decreto del Tribunale dei Minori, per dire ok, sei idoneo o non è idoneo. E poi qui il tempo può prolungarsi all'infinito per l'adozione nazionale, sicuramente sempre per i numeri che non abbiamo, mentre a livello internazionale dipende sempre dal paese in cui si va ad adottare, anche lì incidono tantissimo cadute di governo, scioperi, leggi da rifare, e si attesta mediamente intorno due anni mediamente. Questo vuol dire che una coppia ce ne può impiegare 4 e un'altra coppia ci può impiegare un anno, quindi c'è sempre una media. Ecco, questi un po' sono i paesi in cui noi adottiamo, nei quali siamo presenti come associazioni. E quindi io passerei a presentarvi il nostro ospite speciale, che è Tommy Di Bari, autore televisivo, scrittore, docente di scrittura creativa. Questo libro, che è stato dedicato ovviamente alla figlia, adesso lui ce lo racconterà bene. Innanzitutto ho scoperto piacevolmente che si trova al terzo posto nella classifica dei libri più venduti in tema di adozione, e poi ha vinto anche un premio letterario nazionale, di cui ci parlerà sempre Tommy, premio Zingarelli, proprio per il tema al quale è stato dedicato. Vi presento la mia collega Michela Di Santi, è un'assistente sociale, e insieme cercheranno di raccontarci il lungo viaggio intrapreso da Tommy e Doriana per l'accoglienza della loro bambina. Prego. Vi presentiamo questo libro. È acceso? Sì, un po' più vicino. Vi presentiamo questo libro, che è un libro molto particolare, un libro che muove un po' le corde dei sentimenti. Ho sentito Tommy 2 anni fa a Gabice, presso un nostro bel convegno che facciamo ogni anno, e questo libro veramente tocca un po' tutti i sentimenti di quello che una coppia adottiva così percorre nel proprio iter dell'adozione. Proverò a leggervi alcune lettere che questo papà ha scritto alla figlia e dei pezzi di questo libro, facendo poi domande a Tommy. Vita mia, credici sempre. Più qualcosa ti sembrerà impossibile, irrealizzabile, irraggiungibile, più dovrai ardentemente crederci, e ciò in cui sarà giusto aver fiducia possederà una sola misura di calcolo, i tuoi occhi. Sarà lo sguardo della tua coscienza a fare da spartiacque tra i sentimenti autentici e gli idoli avvelenati, tra le immagini dei fatterelli e i pensieri vestiti d'emozione, perché nel periplo della nostra battaglia per te, piccola mia, è stato un po' così. Abbiamo respirato i nostri silenzi, gli unici di cui ci siamo fidati, e siamo salpati. È lì che abbiamo sentito la bellezza del desiderio, è lì che abbiamo imparato a distinguere il grano dall'olio, è lì che abbiamo fatto della tua idea un manifesto tangibile, senza durezza, altezza, spazio, tempo o spessore. È lì che ti sei fatta figlia di un amore immanente che vivrà per sempre al di là di tutto, papà. E qui iniziamo con... Grazie. Iniziamo con un capitolo chiamato L'inciampo, una parte. Dori era seduta sul divano e sibilò la sua sentenza. Ho avuto delle perdite. L'ipotesi di quel figlio fu insanguinata dal nuovo ciclo che ci condusse al nuovo punto di partenza. Alle ore 16 il dottore ci aspettava in studio. Disse a Doriana: andiamocene, punto e basta, senza avvisare nessuno, lontano da tutti e da tutti. Direzione Capocor. Ci sentivamo puniti, additati da Dio e dallo strano destino, dimenticando però che il Signore non si muove per punti di vista. Questo è un capitolo molto forte, molto bello di questo libro. E volevo chiedere a Tommy questo concetto del dolore, speranza, no? Che sono due sentimenti che ci sono spesso nella prima parte del libro. E quando affrontate l'esperienza anche della procreazione medicalmente assistita, ecco, volevo un po' chiederti se potevi spiegare meglio questi sentimenti, ma anche questa decisione di accettare, no? Questa sentenza come parte della vita. Sì. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sono veramente felice di aver attraversato tutta l'Italia, io sono pugliese, per arrivare sino qui, in questa splendida città. La riflessione prima che faccio da padre adottivo e da scrittore, perché faccio questo nella vita, è il mio strano mestiere, e che ogni tanto ci capita di pensare che possiamo controllare tutto. Il fatto stesso di vedere le cose, dicono i grandi filosofi, ci inducono a dare per scontato che la realtà sia quella. E allora anch'io e Doriana, mia moglie, nel momento in cui abbiamo ascoltato la sentenza di tanti medici che ci dicevano voi non potete avere figli per X ragioni, ci siamo sentiti appunto feriti, additati. Però attraverso quella ferita ci sono due modi di osservare le cose. Il primo modo è quello di vedere la ferita come un dolore, punto e basta, e di guardare quel livido e quella sostanza come qualcosa che tu ti sei beccato. E l'altra opportunità, a mio giudizio, è quello di cominciare a pensare che attraverso la ferita c'è una feritoia e di lì passa un po' di luce. E così è stato per noi, abbiamo cominciato a pensare che forse questo destino strano, che ci era capitato nemmeno troppo per caso, era un destino attraverso il quale potevamo osservare le cose da un'altra angolazione, potevamo osservare le cose da più punti di vista. Vedete, quando ci si sposa si danno per scontate tante cose, la prima fra tutte è quella di poter avere figli. Anche noi avevamo cominciato a fare programmi, ma i programmi, come dire, sono materia finita, mentre i progetti sono una sostanza completamente diversa e più profonda. E quando stavamo programmando avevamo immaginato i nostri figli, magari un maschietto e una femminuccia, avevamo già deciso i nomi, e poi invece così, d'amblè, qualcuno ha deciso per noi un percorso diverso, e dall'altra parte del cielo evidentemente abbiamo imparato a capire che i progetti sono assai più importanti dei programmi. E allora ci siamo soffermati su quello, e la prima cosa che ho imparato da questa straordinaria esperienza, quella cioè dell'adozione, è che se proviamo, lo dico soprattutto alle donne in casa e qui in sala, a chiudere gli occhi per un istante e a immaginare un utero cardiaco, beh, allora attraverso questo utero cardiaco che nasce la gravidanza adottiva. E questa cosa straordinaria è una meraviglia che va ben al di là del biologico. E quando, come scrivo in questa pagina bellissima che ha letto benissimo Michela, evidentemente in quell'istante all'interno di quella sala medica io e Doriana avevamo deciso di liberarci di questa biologia, della ricerca ad ogni costo di dover dare una risposta a quello che la scienza non era in grado di dirci, e abbiamo cominciato a sognare attraverso l'utero cardiaco una possibilità nuova, appunto la gravidanza adottiva. E vi faccio una confidenza molto personale: succede una cosa straordinaria ai genitori adottivi, nazionale, internazionale, questo diventa assolutamente relativo, e che ero incinta anch'io. La gravidanza diventa anche, come dire, maschile, perché quell'attesa, quella lotta, quella combutta, quel progetto che sostituisce il programma assume una grammatica, una sintassi completamente diversa. Credo che molti di voi hanno letto nella propria vita Pinocchio, credo il libro più celebre nel mondo. Beh, ricordate quel passaggio straordinario quando ad un certo punto Mastro Ciliegia, dopo il quarto o il quinto bicchiere, si presenta da Geppetto e gli dice: guarda, un ciocco di legno, voglio regalartelo. E Geppetto lo prende. Poi ad un certo punto questo ciocco di legno comincia a parlare. Ecco, per Mastro Ciliegia Geppetto era un matto, per Geppetto quel ciocco di legno che parlava era un figlio. E questa è una grande differenza. Grazie. L'applauso mi fa piacere. Mio piccolo tesoro, mi sono liberato finalmente della biologia e ho scavato nella carne per venirti a cercare. Ti ho trovata sola nel tuo giaciglio, tra un asino e bue, avvolta in una notte di pianto e di stelle. Siamo venuti a prenderti con tutta la forza del nostro cuore, amore mio, e non perché potessimo esistere come genitori, ma poiché tu esistevi come figlia. Con te, fra noi, tutto è più fecondo adesso, più fertile la vita intorno al tuo nome e a chi esso stesso contiene. Pertanto è giusto che tu sappia che la placenta mancata si è fatta coccole e carezze, il pancione lenzuole nel gioco del parto, il cordone umbilicale, seme di attese e speranze, l'allattamento perduto, i nostri bisbigli al Signore. C'era un velo di Maya, avrebbe detto un vecchio filosofo, ma adesso è caduto, il cattivo copione è stato spezzato, fermato il suo samsara, e tu sei qui, ora e per sempre, papà. Questo invece è il capitolo di questo straordinario rapporto che Tommy racconta con la sua mamma. Mamma mia, quando chiamai mia madre sapeva già tutto, e non perché qualcuno l'avesse detto qualcosa. Ci azzeccava sempre, e ci azzeccò anche questa volta, senza bisogno di farmi tirar fuori la storia dell'inspiegabile, del 30% e di tutti gli scombinati dettagli che ci giravano attorno. Quella mattina mi incamminai, che era ancora presto. Quando giunsi a casa, fui accolto da mia madre con la gioia di sempre. Senza dire una parola, lei si alzò dalla sedia, aprì il cassetto della vecchia maglia e tirò fuori una foto. La foto la conoscevo benissimo. Era quella di mamma a 5 anni e aveva a che fare con la sua incredibile storia. Quello dell'orfanotrofio, dell'esclusione. Ecco, su questo, magari, Tommy, se ci puoi raccontare, no? Questo intanto partire da una cosa che è molto strana, direbbero gli umani, ma che io trovo straordinaria, perché non credo nelle coincidenze. Hopke, un grande psicoterapeuta, dice che le cose non avvengono mai per caso, ma un assistente sociale molto più bravo di lui, per chi ha fede, Dio evidentemente le cose non le fa accadere solo per programmi, ma attraverso i progetti. E vi dico questa cosa abbastanza strana, che non è appunto una coincidenza, come sostengono un po' tutti nella visione troppo razionale della vita, ma che io trovo possa essere definita come meraviglia. Mia madre è stata adottata alla stessa età in cui io e Doriana abbiamo adottato mia figlia, più o meno per le stesse ragioni, solo che mia madre è stata adottata a cavallo del dopoguerra, quando all'epoca non c'era tutto quello di cui parlava Paola, c'erano dei brefotrofi, li definivano così. Mia madre è settentrionale e viveva in un piccolo brefotrofio abbandonato, era il 1945, ed è stata poi adottata dai miei nonni, dai suoi genitori, gli unici al mondo, e in quell'esperienza non ha dimenticato nulla. E quando mi mostrò quella fotografia, era la fotografia dell'orfanotrofio o brefotrofio, che dir si voglia, in cui mia madre aveva la pancia gonfia, esattamente come i bambini africani, per malnutrizione. E quando io confidai a mia mamma, perché il capitolo si chiama appunto Mamma mia, non volevo chiamarlo mia madre, a mamma, almeno noi del sud diciamo mamma mia, quando le ho detto questo, lei mi ha guardato e mi ha detto: che bello, è una cosa straordinaria, perché così io nascerò ancora una volta attraverso di voi. E in quell'istante, in modo assolutamente straordinario, se volete anche spirituale, ho sentito mia madre diventare mia figlia e rinascere attraverso l'adozione di Martina. E questa cosa ha dato una potenza unica all'evento, una potenza non voluta, non cercata né ricercata, una potenza straordinaria che si è verificata attraverso quella che qualcuno razionalmente chiama coincidenza e che a me piace invece definire meraviglia. Mia madre mi raccontava, quando ero bambino, quali erano le condizioni in cui viveva all'interno di queste strutture, ed erano condizioni veramente devastanti, e sono, come dicevo oggi a Paola, spesso le stesse condizioni che vivono i bambini in Congo o in Africa o in altri luoghi, nell'est soprattutto. Immaginate che quando faceva la pipì a letto, per punizione, le educatrici o presunte tali avevano l'abitudine di chiamare tutti i bambini che l'avevano fatta a letto, e mia madre la faceva spesso, perché se non hai nessuno che ti assiste, se non hai nessuno che da chiamare la notte, la pipì te la fai davvero addosso. Avevano questa strana usanza meschina di porre sul capo dei bambini il lenzuolo umido di urina e di lasciarli così tutta la notte in ginocchio, in fila, vicino al corridoio. E mia madre diceva sempre che, visti da lontano, sembravano come dei piccoli fantasmi con questo lenzuolo sul capo. E io queste cose non le ho mai dimenticate. Il fatto che la vita poi mi abbia ripresentato questo copione, che è stato per la seconda volta strappato, perché, ecco, mia figlia non veniva proprio da una dimensione uguale a quella del mulino bianco, allora ho trovato questa cosa straordinaria. Non mi sento speciale o diverso, e non mi sento nemmeno un eroe. Anzi, se ci riflettiamo bene, tanto per rispondere alla prima domanda che faceva la signora quando ha detto quanto tempo ci vuole, io la ribalto con la domanda: quanto tempo siamo disposti ad aspettare per accogliere questo figlio? Perché è giusta la dichiarazione, non siamo noi che scegliamo loro, sono loro che devono essere accolti da noi. Perciò, se io rifletto e ripenso alla dimensione di mia figlia, ecco, io mi sento un po' come gli americani quando nel dopoguerra sono arrivati in Italia e davano le cioccolate dei carri armati. Per noi è un gioco facile, noi eravamo già pronti in quel momento, dopo un percorso, per vivere l'esperienza genitoriale. Immaginate invece quanto doloroso e duro deve essere stato per loro. Gli eroi sono i bambini che stanno lì in piedi sulla soglia di quella porta in attesa che qualcuno vada a prenderli e li faccia sentire figli, e sono bambini fragili, piccoli, hanno 4, 5, 3 anni, mia figlia ne aveva appena 5, e su quelle gambette di carta stagnola ha resistito e ha trovato il tempo e la forza di aspettarci. Proprio per sentire un po' tutti i passaggi dell'adozione. Figlia mia, facciamo due conti. Ho provato a fare un calcolo, un conteggio preciso dei secondi, dei minuti e delle ore che di te abbiamo perduto, ma credimi, mi sono smarrito. Quando l'anima è strozzata dal dolore, ottunde ogni capacità cognitiva. Eri già nata da un anno e noi festeggiavamo il nostro matrimonio. Eri nata altrove, in un altrove fatto di fango, di vita avanzata e di abbandono. Ti chiedo perdono, piccola mia, se in quel giorno non ho asciugato le tue lacrime, se per destino d'anagrafe non ho registrato i tuoi vagiti, fermato quegli schiaffi e accarezzato le tue notti. Se un soffio del tuo fiato, giuro, fosse giunto sino a noi, avremmo lasciato tutto e tutti. E saremo corsi, in doppio petto e abito da sposa, verso le tue grida. Coi piedi gonfi avremo attraversato la campagna e i suoi sassi. Saremmo venuti a prenderti e a portarti via. Ma adesso sei qui, non piangere più. Ora sei carne della mia carne, ossa nelle mie ossa, vita dentro la mia stessa vita. Deposita qui le tue paure, i lividi, le ferite e i sogni. Li annaffieremo ogni giorno e saranno fiori meravigliosi. Papà. Ecco, e qui c'è l'incontro, ed è molto bello il titolo del libro che Però vostra figlia, se non mi fate mangiare le zucchine. E voi le zucchine le mangiate? Sì, sì, le mangia, perché adesso c'è la nonna che le prepara così bene, una nonna che cucina in modo straordinario, lei è uno chef 2.0, che adesso le zucchine non ci sono più, cioè sono, ci sono, ma non si vedono, sono fatte talmente bene che adesso piacciono tantissimo. Perché il punto è non tanto saper cucinare, quanto avere fantasia nel costruire un piatto che si decide di offrire a qualcuno. E certo, la pastella, brava. Sì, sì. Ecco, quindi questo bellissimo titolo che piace ed è molto simpatico, da dove l'avete tirato fuori? Sì, allora, intanto il titolo non è mio, ma prima ancora di rispondere al titolo voglio soffermarmi su quella lettera per una ragione molto precisa, perché mi piace riflettere sul senso del tempo e su come ci approcciamo spesso male all'idea del tempo. Abbiamo fretta, facciamo programmi futuri, riflettiamo sugli errori passati e poi ci dimentichiamo di vivere il solo tempo che davvero ci è dato in dote, cioè il presente. I latini dicono hic et nunc. Nel momento in cui io stavo vivendo l'esperienza bellissima del matrimonio, probabilmente dall'altra parte del mondo, nel caso internazionale, o dall'altra parte della città, nel caso nazionale, una bambina aveva bisogno di noi. E questa è una cosa che non mi perdono, paradossalmente. So che in modo razionale non potevo fare nulla perché non sapevo dell'esistenza di mia figlia, ma ho scritto quella lettera per condividere con voi esattamente questo aspetto. Ora siamo qui in questo istante. Io ho fatto con mia moglie la seconda domanda, anzi abbiamo dato la seconda disponibilità per una nuova adozione, perché ci piace allargare la famiglia e perché è giusto che Martina abbia una sorellina, un fratellino. Ecco, in questo istante mio figlio, il mio secondogenito, che adesso non c'è, è da un'altra parte. È già nato. È già nato, bravissima. E se mi arrivasse un SMS da qualche parte del mondo e mi dicesse sono qui papà ti aspetto, con tutto il garbo del mondo vi lascerei testé e correrei da lui. Perché? Perché dobbiamo accettare innanzitutto l'idea che la nascita e quindi la gravidanza adottiva, non ha nessuna differenza con la nascita biologica o naturale che dir si voglia. Non c'è nessuna differenza, solo che per arrivare a questo percorso occorre scavare molto dentro di sé, diventare dei palombari e scegliere di andare a fondo. E anch'io con mia moglie, come tutte le coppie che volevano un figlio naturale, ci siamo avventurati attraverso le forche caudine della sanità e ci siamo fatti svuotare il nostro bancomat facendo 3 fecondazioni medicalmente assistite. Ecco, se tornassi indietro non le farei. Se tornassi indietro, come ne lo sto facendo per la seconda adozione, correrei subito verso quella vita. E mi sembra assurdo il fatto che ci siano delle coppie che continuino a trascurare questa ipotesi e che non accettino l'idea che l'adozione è una nascita. Quando arriva un bambino adottato, ricordatevi, occorre fare gli auguri ai genitori. Auguri, è nato tuo figlio. Occorre mettere, come facciamo noi, un fiocco azzurro rosa davanti ai portoni. Occorre fare una lista baby perché è arrivato un bambino. E anche se quel bambino non piange perché non ha 3 mesi, come i figli biologici, ma ne ha 5, beh, vi posso garantire che è comunque una nascita. E i bambini che hanno una sensibilità straordinaria poi vi chiederanno di rinascere. Mia figlia ogni tanto, adesso non più perché è tanto tempo che è con noi, ma i primi tempi, Doriana, mia moglie, che è memoria storica, lo ricorderà molto meglio di me, ci diceva: papà, ci mettiamo sul lettone, prendiamo il lenzuolo e giochiamo a rinascere. E noi giocavamo al parto, e che non è uno spettacolo teatrale, è una catarsi straordinaria, profonda, attraverso la quale i bambini diventano parte di te, sono la tua pelle, le tue ossa, il tuo sangue, il tuo fiato, il tuo respiro, e lentamente vi posso giurare che cominceranno anche ad assomigliarvi. E non importa che sia un colore diverso, lo saranno nelle movenze, nel modo di essere, nel modo di parlare, nelle gestualità. A noi capita spessissimo di incontrare amici, gente che non sanno della nostra storia, e spesso ci dicono: guarda Doriana, come ti somiglia tua figlia, le stesse fattezze. Noi non sveliamo segreti non perché ci sia nulla da nascondere, ma perché in quel momento ci vogliamo godere quel complimento, quell'aspetto straordinario di simbiosi unica che avviene tra una madre e una figlia attraverso la gravidanza adottiva. E per tornare al tema della domanda, il perché di questo titolo, Beh, io vi devo dire che quando mia figlia avrà 18 anni dovrò pagare a lei la SIAE, perché il titolo non è mio. Moltissime persone mi fanno i complimenti: ma che titolo strambo, originario, curioso. Io ho scritto di satira per molti anni, sono stato autore di Striscia la Notizia, ho scritto per Zelig e per molti canali televisivi, e tutti hanno pensato: ma forse l'avrà pensato lui essendo un autore di satira. No, è una cosa straordinaria che ha, è intrisa di ironia ma anche di dramma, ed è un po' agrodolce, nel senso che una sera, quando mia figlia non era ancora nata attraverso di noi ed era giunta a casa nostra, lei era presso una famiglia di zii, tra virgolette, affidatari, perché in un periodo di transizione la bambina ha passato questo periodo lì tutelativo e cautelativo per lei. E quando stava per avvenire il passaggio, prima del passaggio, noi avevamo diritto a qualche telefonata, e perciò ci sentivamo con la coppia, perché adesso siamo diventati anche amici, degli zii, sempre tra virgolette, che avevano in affido la bambina. Io non scorderò mai quelle sere quando, con mia moglie spalmati sul divano completamente in lacrime, alle 8:30 spaccate potevamo chiamare i nostri amici, e quindi i genitori affidatari in questo caso della bambina, sentirli e provare a parlare con Martina. Io non dimenticherò mai le sue telefonate, questa voce rotta dall'emozione, questa voce ammaccata dal raffreddore, questa voce tenera e dolcissima che solo i bambini di 5 anni possono avere, e che quella sera, quando seppe del passaggio, ci disse: ho deciso, i bambini decidono a 5 anni, ho deciso che sarò vostra figlia a 3 condizioni: se mi comprate un cane. Abbiamo comprato un gatto, anche perché la sera a volte il cane era un po' complicato, però adesso c'è, si chiama Mela e ci manca tantissimo. Se non mi farete mangiare le zucchine, noi chiaramente promettemmo tutto questo, però poi adesso le mangia perché c'è la nonna straordinaria che gliele prepara in ogni forma. E l'ultima istanza, che dalla profondità e il senso e la misura di quanto i bambini sanno testare il mondo degli adulti: se non mi darete le botte, se sarete in grado di essere all'altezza dell'amore che io ho bisogno di ricevere. E in quel momento, tra una lacrima e la gioia, ci siamo stretti forti, e mia moglie, abbiamo detto: non c'è nessun problema, avrai il cane, in quel caso poi è diventato un gatto, non ti daremo le zucchine, fortunatamente le mangiate, e non ci saranno mai botte. Certo, qualche marachella la fa e qualche piccola punizione la prende, ma c'è una grande differenza tra una violenza e una regola. E questa sottile differenza, come dicono i francesi, questa linea Maginot, non può essere mai valicata, né giustificata, né assolta, mai, non avrà mai un alibi tutto questo. Perché, come dice la grande Maria Montessori, i bambini non vanno costruiti, vanno custoditi, ed è su questo che abbiamo cercato e ogni giorno cerchiamo millimetricamente di provare ad essere dei genitori all'altezza di Martina, a cui pagherò la SIAE. Grazie. L'ultima lettera. Tesoro mia, voglio raccontarti una piccola storia. Durante un corso per genitori in attesa di un figlio, una psicologa pose loro una domanda apparentemente semplice. Chiese: cosa può togliervi l'arrivo di un bambino rispetto alla vita che state vivendo adesso? In tanti fecero riferimento al tempo, quello che non avrebbero più avuto per se stessi, altri alla relazione di coppia, certamente ridotta da una nuova presenza. Una sola coppia invece rispose che un figlio non toglie, ma aggiunge. Così è l'addizione che hai portato nelle nostre vite, amore mio. Io benedico la tua presenza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siano benedetti i chilometri, i muscoli affaticati, gli autogrill conosciuti, i panini smozzicati, il tabacco consumato, il suono croccante delle frasi dette e di quelle taciute. Sia benedetta anche la rabbia e questa piccola lettera che scrivo, e siano benedette le parole incollate al foglio e attaccate a te per sempre, papà. E qui ritorniamo al primo capitolo che l'autore ha chiamato Le gravidanze cardiache, che prima ne ha parlato. Leiby aveva riunito tutte le coppie con esperienza dell'adozione già nel cuore o in procinto di compierla per una serata di conoscenza e condivisione. bastavano gli sguardi, erano persone a cui non importava un fico secco del posto, gente che certamente non aveva bisogno di andare sulla luna, perché sulla luna ci stava già. Le facce dei presenti scandalizzavano per la semplicità. Tutti parlavano con tutti, sprigionando un'elettricità che saturava senza scampo ogni angolo del locale. L'unico scambio erano i sentimenti che inzuppavano gli occhi dei presenti. Gravidanze cardiache di genitori che aspettavano solo un sì per correre a prendere il proprio bambino in Congo, in Perù, in Cina. Ecco, in questo bel momento in cui parli anche delle altre famiglie, ci puoi raccontare come sei riuscito nel libro, a quale emozioni, no, puoi sentire quando parli con altre famiglie? Intanto devo cogliere l'occasione per ringraziare l'AIBI, perché all'inizio noi avevamo fatto una domanda internazionale, anzi una dichiarazione di disponibilità, così poi sbaglio Paola, e solo che il Tribunale Nazionale ci ha chiamati, quindi abbiamo ascoltato la prima voce e corso dietro a quel suono. Però la formazione psicologica, la tempra, l'educazione mentale e sentimentale, beh, tutto questo noi lo dobbiamo all'AIBI, perché abbiamo fatto con l'AIBI un percorso straordinario che ci ha insegnato tantissimo. Perché quando ci si approccia all'adozione si può correre il rischio di fare un sacco di errori. Il primo fra tutti è quello di non liberarsi subito dell'idea biologica, per cui si va a caccia del bambino che assomiglia al bambino nato, mentre l'adozione non prevede questo. Se tu stai per adottare, il tuo bambino nasce che ha 7 anni, 5, 4, ed è indipendente il fattore biografico, mentre se ancora tu sei intriso di quel desiderio mancato, di quella frustrazione, perché comunque è una frustrazione la mancanza di un figlio per mille ragioni, allora a quel punto tu non sei pronto. E come dico spesso alle coppie che mi scrivono poi su Facebook, dice: sai, ho avuto delle difficoltà, però tanta burocrazia. Ok, c'è mille difficoltà, ma la domanda è: tu sei pronto? Hai fatto un percorso? L'AIBI prevedeva dei percorsi, noi li abbiamo fatti e ho trovato questo supporto, questo sostegno semplicemente straordinario, perché è stato illuminante, ci ha educato a fare quello che dicevo all'inizio, un bellissimo viaggio da palombari dentro di noi. E a quel punto qualcosa è scoppiata, ed è scoppiato anche il desiderio della gravidanza, per cui abbiamo cominciato a frequentare l'associazione. Oggi il coordinatore dell'associazione AIBI Puglia, per me e mio fratello, siamo legati profondamente, continuo a fare attività con loro anche come volontario. E quella sera eravamo lì per mangiare una pizza, c'era tanta gente, e tra le tante persone ed ospiti c'erano moltissime coppie che erano in procinto di partire per il Congo, per la Cina e per moltissimi altri paesi del mondo. E la cosa straordinaria, signori, era guardare gli occhi di queste coppie, ecco, in particolare le mamme, che non avevano ancora il figlio con loro. Ma sapete com'è lo sguardo di una donna incinta? Quella dolcezza, quella tenerezza, beh, loro ce le avevano tutte le beta HCG, cioè era già tutto scientificamente provato, perché erano gravide di quell'amore ed erano gravide di quel parto che stava per scoppiare di lì a poco, di lì ad una telefonata prossima. E questa esperienza è stata straordinaria. Poi ci fu un momento durante la serata di ballo, insomma giocoso, e misero una canzone, insomma, neanche me la ricordo, però ricordo questo gesto. C'erano le coppie già con i bambini, insieme alle coppie che stavano per essere chiamate, e ricordo questa cosa bellissima delle mamme che ballarono con i figli. Quindi c'era un bambino africano, cinese, congolese, bulgaro, rumeno, e c'erano tutti i colori del mondo, c'era l'arcobaleno della democrazia. E forse solo i bambini la sanno costruire, perché noi adulti, permettetemi, naturalmente me compreso, siamo carichi delle nostre sovrastrutture mentali, dei nostri macigni, dei nostri copioni. Loro non sanno che cos'è il razzismo, loro non conoscono quali sono le differenze, per loro sono quei bambini che stavano giocando e ballando. E se riuscissimo delicatamente ad imparare da loro, io credo che in qualche modo le cose sarebbero diverse, perché quello che vale è una regola assoluta che io amo molto, ma non è mia, è di Leo Buscaglia. Quando scrisse questo saggio straordinario, lui era un pedagogista e anche uno psicologo, ti amerò indipendentemente da tutti, dice Buscaglia, ti amerò se sei imperfetto, se inciampi, se non sei come io ti voglio, se non sei come io mi aspetto che tu sia. Ecco, la gente, se imparasse ad amare così, forse molti ragazzi non finirebbero negli istituti psichiatrici. Volevo solo aggiungere una cosa molto divertente, ma ci tengo a dirla, Michela, prima di qualche domanda, e che anche per sorridere un po', perché c'è una parte che poi viene spesso trascurata, ma c'è naturalmente nel libro, se avrete il piacere di leggerlo. Le forche caudine che abbiamo subito durante tutto l'iter per tentare di avere un figlio naturale. Bisogna stare molto attenti in Italia. Io vengo dal mondo di Striscia e ne ho viste veramente di tutti i colori. Ed è vero che spesso ci capitava di sentire signore che ricorrevano al mago e davano al mago tanti soldi per avere un figlio o guarire, però ci sono anche molti medici che si comportano come dei maghi e ti ricattano quando tu vuoi, hai il desiderio grande di avere un figlio, loro lo percepiscono e allora si comportano male, dimenticano il giuramento di Ippocrate e questi camici bianchi diventano camici sporchi. E i camici sporchi sono quelli che non hanno più giudizio morale, senso etico, amore, relazione con l'altro. Loro mirano ad ottenere un risultato, sanno che tu hai un bisogno e lavorano scavando dentro di te per soddisfare quel bisogno che sanno spesso non andrà a buon fine, abbiamo visto i dati in termini percentuali, ma che sicuramente porterà loro dei guadagni. In ogni senso, perché guardate che anche nel pubblico, noi abbiamo affrontato anche il privato naturalmente quando abbiamo fatto delle fecondazioni medicalmente assistite, ma c'è un ritorno anche nel pubblico. Io quello che chiedo non è la risposta, non è la certezza, non voglio che il medico risolva in questo caso quello che all'epoca giudicavamo il nostro problema. Io voglio che un medico torni ad essere un essere umano e che impariamo tutti quanti insieme quello che ci ricorda spesso Massimo Recalcati, che l'amore è anche taciuto e che alle volte le parole devono essere liberate. Posso, Paola? E che conta, scusa la mano fredda ma l'emozione, conta solo un gesto, un contatto, e questa è l'empatia. E alle volte bastava sentirsi dire: signore, ci proveremo, ci abbracciamo un po', proviamo e vediamo se nella misura del tentativo riusciremo ad ottenere questo risultato. Poi questo risultato non c'è stato, il destino ha deciso per noi, il cielo ha deciso per noi e per chi ha fede Dio ha deciso per noi. E io ho trovato in questa decisione, in questo progetto, meno programma e tanto stupore. Questo stupore si è fatto meraviglia, possibilità nuova. E oggi vi giuro che se tornassi indietro, ripensando a quella lettera, quanto tempo non butterei via. È nata 9 mesi e 10 giorni dopo il matrimonio. Questa figlia è cresciuta e si è sposata e i nipotini non arrivavano e io ero disperata, poi finalmente è arrivata. Sì, c'è questo dolore, lo capisco perfettamente. Si immagini, lei è di Bolzano? Sì, ecco, Bolzano. Al sud, diciamo, c'è un livello di discrezione un po' più basso. Io amo moltissimo il sud, sono orgogliosissimo di essere sudista, come dico spesso, però in città, la domenica mattina, in piazza, sul corso, quando si fanno le vasche su e giù, a parte il fatto che erano tutti incinta, secondo noi, io vedevo un figlio, era una cosa impressionante. Secondo me in quel periodo il tasso era altissimo. In verità è che quando una cosa ti manca, la vedi ovunque. E io ricordo questo atteggiamento spesso irriverente, e che io poi alla fine ho perdonato, di allora quando ce ne fate uno, allora, ma come, sono 3 anni che siete sposati, allora, a parte che la risposta meriterebbe un po' di volgarità, ma non voglio usarla qui, però in quell'istante per noi erano pugnalate, era dolore, perché ci sentivamo così, ci sentivamo a metà, puniti, incapaci, menomati, lasciatemi passare il termine, e poi all'improvviso invece fai queste riflessioni straordinarie, e capisci che in quel momento c'è un'occasione straordinaria, c'è una strada meravigliosa davanti a te e devi solo decidere di percorrerla, e si chiama adozione. Prego. Io volevo dire due, tre cose. Lei è un bel giovanotto, io l'ho visto entrare e l'ho quasi scambiato all'elettricista che si sistema. Grazie. Ci ha riempito di tale gioia che lei si porta. Grazie. Dietro. Io credo che quella bambina a voi, scusi, vi ha dato molto di più di quello che voi avete dato a lei. Verissimo. Perché verissimo. Si sente da come lei verissimo. L'ha messo qua. L'ultimo momento adesso, e il mondo è così, ha detto qualcosa di negativo. Il mondo è anche così, ma io credo che a voi vi ha riempito di tantissimo. Io mi ricordo che ho avuto i due figli, io mi ricordo che il primo è nato dopo 10 mesi e già i primi là, se non nasce ne adotto uno, no, anche andare in Australia, ma non mi frega niente. La stessa cosa dopo 20 mesi alla figlia, quella figlia adesso ce n'ha due adottati. Ma perché molti, mi perdoni se la interrompo, perché molti, lo so che può sembrare antipatico, duro e impressionante da dire, ma succede. Anche amici, carissimi amici, persone colte, laureate, preparate, mi hanno posto spesso la domanda, dice, ma come mai, ma perché, ma sai, io non lo so se sarebbe poi la stessa cosa, forse sai, comunque adottato non è tuo fino in fondo. È un ragionamento molto cervellotico. Noi invece ci dobbiamo liberare di questa razionalità, perché io dico spesso, una donna quando sta per avere un figlio non fa un ragionamento, non fa calcoli, non è razionale. L'adozione, essendo una gravidanza cardiaca, richiede alla coppia adottante o alla coppia che è disposta a vivere questa genitorialità di non avere razionalità, di perderla completamente. E perdendola che tu ritrovi, come dire, la profondità vera di quello che tu desideri, che poi in realtà è quello che avviene in tutte le cose che scegliamo. Guardi, mia figlia, i primi giorni che è arrivata, ha detto una cosa che io trovo straordinaria, ma non perché l'abbia detta mia figlia, perché i bambini tutti sono capaci di fare delle domande a cui nemmeno i filosofi sanno rispondere. Lei mi ha detto, papi, e stava andando a scuola, era prima elementare, se lo guardi bene il cielo è un mare rovesciato. E credo che questa frase io me la porterò dentro per sempre, tatuata nell'anima mia, perché se i bambini colgono questi aspetti vuol dire che ci educano a vedere degli spazi che noi mediamente non vediamo. Il cielo è un mare rovesciato ed è così che bisogna approcciarsi in generale alla vita e in modo particolare all'adozione. Se il cielo è un mare rovesciato, allora c'è una possibilità nuova dentro di noi che ci attraversa. Ed è vero quello che lei dice, è la nostra bambina che ha portato più gioia di quanto noi fossimo capaci di dare a lei, perché siamo innamorati, perdutamente innamorati, siamo tre innamorati che camminano felici e che camminavano ieri felici per Bolzano e che trovavano bellezza in ogni cosa, ma perché forse la bellezza, mi perdonerete, al di là del piacere urbanistico della città, era nella dimensione che noi stavamo vivendo insieme in quel luogo. Quindi qualunque luogo diventa meraviglioso perché tu lo stai vivendo con amore. E questa cosa è unica. E le racconto un episodio molto simpatico e chiudo. Più di qualche giorno fa, eravamo in un negozio e mia moglie doveva scegliere un regalo per un'amica e incontro un'amica che non vedeva da molto tempo, sempre perché spesso non abbiamo quel tatto, quella capacità di essere opportuni, diceva il mio maestro. Opportuni significa riuscire a cogliere il momento giusto nel tempo giusto, come nella musica, ecco il là. E questa signora, amica di mia moglie, tra virgolette, che non vedeva da molto tempo, ci vede la bambina, mia figlia è molto alta, diceva, io, sai Doriana, mia moglie si chiama Doriana, non mi ricordo di te incinta. La bambina era lì e Doriana voleva evitare, dice, ma papà, non ho l'immagine di te incinta, poi su Facebook ormai è tutto controllato. Ha detto, mia moglie insomma ha bozzato un po'. La bambina, nella sua sensibilità e intelligenza, ha capito e ha liberato tutti dall'imbarazzo dicendo, signora, sono adottiva, dobbiamo andare a fare la spesa, grazie. Io ho trovato questa cosa straordinaria, perché i bambini dicono, ma non ti preoccupare, sono adottiva, quindi sono nata, punto. Non c'è da ragionare, non c'è da allambiccarsi, non si può fare un calcolo della misura sull'amore. Avete mai visto l'aritmetica dell'amore? Al limite abbiamo la grammatica con tutti i suoi accenti, e questo l'amore, non altro. Io volevo aggiungere quello che ha detto mia moglie, che quando il medico le ha messo in braccio il bambino appena nato, lei ha avuto il coraggio di dire, dottore, io sto tanto bene qua che torno, guardi che torno. E lui mi ha detto, ma che cosa il dottore ha detto, fate che sua moglie. Posso dire una cosa? Prego. Bellissima. Ho sentito adesso, mi è piaciuto tanto, si vede anche lei. Ha scritto il libro, quello che abbiamo sentito, Lettere alla figlia, sì, sì. Il tuo papà, ma è bellissimo, sì. Sarà stata contenta, posso dire quanti anni c'è stata? Adesso no, per queste lettere le ho scritte immaginando mia figlia quando sarà adolescente e mi chiederà di fare sì, il tatuaggio. No, scherzo, perché io lavoro molto con gli adolescenti, tra le tante cose che faccio, lavoro con i centri di salute mentale, faccio l'educatore negli istituti penitenziari e spesso ho a che fare con ragazzi difficili, so quanto l'adolescenza possa essere traumatica. traumatica, se la relazione genitoriale all'interno dell'ambiente familiare non è sana, non è ben costruita e non è pronta ad affrontare la tempesta. Per cui, ecco, io dico spesso provocatoriamente, i genitori lasciano polizze, case, macchine, noi magari anche quello, speriamo, però prevalentemente è il mio testamento d'amore, ecco, volevo che fosse questo, con il suo valore. Finisco, scusi, prego. Faccio tanti auguri per il secondo. Sì, sì. Ma guardi, le dico, questa immagine è suo marito. Non lo so, ci potrebbero chiamare anche tra un'ora. No, mi rifaccio quello che ha detto suo marito, giusto? Quando ha detto io ci torno. Ecco, per noi è stata la stessa cosa. Nell'adozione, ecco, lo rifacciamo, credo una terza, una quarta, perché a Natale mi piace l'idea che saremo tanti a casa, magari non ci potremo permettere due macchine, ma ci potremo permettere un sacco di rumore. E questa cosa la trovo, come dire, unica, ma ripeto, non mi sento un eroe, non siamo una coppia speciale. Io credo che per farlo occorre solo una cosa, lo scandalo della semplicità. E ripeto, lo scandalo della semplicità è una grande dose di paura, perché se mi chiedete, hai avuto paura quando hai adottato? Tantissima, hai paura oggi? Tantissima, una paura pazzesca, però la paura non va combattuta, va accettata, va invitata a cena, magari stasera la porteremo in un ristorante e starà accanto a noi, e quella paura deve diventare coraggio, e allora diventa il coraggio della paura, e così tu puoi affrontare qualunque tempesta. Grazie. Grazie. Mia figlia ne ha adottati due. Grande. Ha chiesto uno prima, ha chiesto uno, una settimana dopo da quello stesso posto gli è arrivata la richiesta. Sareste disponibili a prenderne due? Ci hanno pensato una settimana, ha detto di sì. Sì. Due sono ancora da 9 anni. Benissimo, bene. Ma volevo chiedere, prego, perché non danno l'adozione anche a una persona sola? Io credo che ci sia, ma qui mi correggerà Paola e Michela meglio, la possibilità solo dell'affido. Sì, l'affido. L'affido. Sì, al momento la legge italiana parla di coppia sposata da almeno 3 anni, sì, o che convive e al momento della domanda è sposata, no? Quindi purtroppo c'è proprio questo scalino della legge che ferma. Invece sull'affido familiare è già molto più aperto, perché permette anche ai single di poter diventare famiglia affidataria, no? Quindi questo, c'è una prima apertura almeno lì. Ma si sposati, ma ci si separa. Esatto. Male, no? È vero, è vero. Genitori, averne persi 4 e quindi non potrà mai più averne, insomma, tanto dolore. Anch'io sono molto favorevole a questa ipotesi. Tanto dolore, tanto vuoto. Dice ok, adesso ho una certa età, adesso non ho figli e forse sono anche contenta perché almeno chiudo gli occhi, so che non lascio nessuno, però, no, però sono d'accordo con... che si trasforma. Sì, sì, sono d'accordissimo. Se ci fosse, purtroppo, io dico sempre, in Italia le cose diventano troppo difficili, sempre. Siamo soffocati dalla burocrazia, dalle leggi complicate, e quindi ci troviamo di fronte a dei muri invalicabili. E questa è un'ipotesi di quelle che dovrebbero essere abbattute. Sì. Perché io penso anche a mia madre. Secondo me sarebbe all'altezza. Cioè, ma tua madre adesso ha una certa età... Noi stabiliamo sempre delle regole, l'età in cui è giusto amare, l'età... Esatto, e posso aggiungere anche una certa maturità in più, se mi posso permettere. Perché in realtà hai 60 anni, non sei vecchia, non sei nemmeno giovane, però magari hai voglia. Un sogno che ed è comunque sempre meglio che stare in un istituto. Hai avuto i nipoti, hai avuto, certo, i bambini della vicina, ma non saranno mai stati tuoi, quelli che volevi, insomma, quello in alto non ha voluto. Sì che a casa siamo 10 figli. Complimenti. Però io credo, non so se posso, come dice Tommy, per loro AIB, il nostro presidente, mi piace molto questa nuova terminologia della gravidanza cardiaca. In AIB si parla di sterilità feconda, certo. Però effettivamente c'è l'affido che non è l'adozione. Anch'io lo propongo spesso, no? A amiche, persone insomma a cui sono legata e che magari non è riuscita a realizzare neanche il formato coppia. Oggi se non sei coppia non puoi fare l'adozione, quindi anche se non potresti avere dei figli naturalmente non li puoi comunque avere neanche a livello adottivo, però magari prima o poi cambierà qualcosa, però l'affido è anche un percorso. Lì mi sento rispondere, capisco che però è però quando poi me lo portano via, io come faccio? Però secondo me anche l'affido deve essere una lettura. In quel momento io amo un bambino che ha bisogno di essere amato, e se lo vedo nell'ottica dell'altro, doloroso sarà sicuramente la separazione, però forse la vedo in maniera diversa, riesco in qualche modo ad accettarlo. Sì, no? Sì, considerando sempre che bisogna prepararsi. È chiaro. Prepararsi perché... Prego. Hai dato l'amore, l'hai dato quello che hai potuto, hai dato l'amore. Certo. Esatto. Che è questo, no? Anche quando prendi... Io ricordo che ho preso per un periodo una bambina che veniva dalla Romania, no? Sì. Però è stato difficile perché ero io più che volevo, più che altro, no? Sì. Avevo anche una figlia che era gelosa e bisogna essere in tre a volerlo, no? Assolutamente. La ma le domande che mi dicevano, come si fa? O anche il giudizio che davano su questa bambina che era capricciosa, eccetera. Ma è amare un bambino e accettarlo con i suoi difetti, e tu lo devi in quel momento anche educare, certo. No? Non puoi pensare che viene fuori da un istituto e che è come i nostri figli, che gli abbiamo dato un'educazione, gli mancano tantissime cose, no? Le regole, queste cose che non hanno, no? E la cosa più difficile, no? È amarli questi figli. Non, mi permetto di legarmi alla sua riflessione. Che loro... tu devi dare amore, questo devi dare, senza chiedere niente in cambio, che poi ce l'hai. Non è mica una negoziazione, io lo dico spesso, sono d'accordo con lei. È molto difficile. Sì, sono d'accordo. Intanto bisogna provare a cercare verbi alternativi. Molto spesso le coppie dicono voglio un figlio. Mi piacerebbe dire sento di volere un figlio. Perché sentire significa lavorare molto con se stessi. E poi è vero, sono monelli, sono capricciosi, ma perché i bambini biologici non lo sono? Certo. Ma perché sono pezzi dell'IKEA che ordiniamo, guarda, è un po' difettoso, glielo mando indietro. Ma va bene, qualcuno diceva il capriccio, un grande psicologo mi ha insegnato, sono un grande appassionato di psicologia, il capriccio è un dolore del bambino, non piange solo perché non ha avuto il giocattolo, per il bambino quel capriccio è un dolore e noi dobbiamo sentirlo, comprenderlo, porci alla sua altezza. Io non dimenticherò mai quando abbiamo incontrato per la prima volta Martina, che è un nome di fantasia naturalmente, e la prima volta l'abbiamo incontrata all'interno di questa stanza, era una stanza adeguata, strutturata, usiamo un termine tecnico, c'era la psicologa, la neuropsicologa, c'erano la coppia affidataria, in questo caso questi zii, c'eravamo naturalmente noi e c'era lei. Ecco, voi dovete immaginare per un istante incontrare per la prima volta vostro figlio. Le domande che ci siamo posti fra di noi erano: come ci chiamerà? Ci darà del tu? Ci darà del lei? E noi come ci dovremo porre? Ecco, ad un certo punto, un istante prima della soglia di quella porta, tutta la razionalità è andata perduta e mia moglie, come solo le mamme sanno fare, ha trovato qualcosa di straordinario dentro di lei che io chiamo empatia, ma che forse è qualcosa di più profondo, irrazionale, che non so giustificare, non ho un modo per spiegarvelo, so solo che questa donna, mia moglie, la mamma di mia figlia, ha guardato sua figlia, che non conosceva, si è posta alla sua altezza e ha detto io sono mamma. Due persone che non si erano mai viste prima di quell'istante erano lì e niente, nessuno avrebbe potuto mai separarli. Questa si chiama genitorialità e accade, accade ed è straordinario. Scusi, forse lei aveva dimenticato qualcosa. Lei ha detto cosa noi abbiamo pensato di vedere la bambina. Bravo. Vi siete certo. Cosa pensate? Aveva tanta paura. Voi e questi due. Tanta paura, questi signori. Infatti ha detto, io ricordo, ha subito trovato empatia con la mamma, con il papà, cioè con il sottoscritto, un po' meno perché aveva un timore della figura maschile, forse io ero pelato, mi disse il primo giorno. E loro poi si allontanarono e andarono verso un angolo dove c'erano dei giochi, essendo una stanza strutturata c'era un angolo deputato, e mia moglie e mia figlia cominciarono a giocare, giocavano a cucinare. E poi lentamente, piano piano, millimetricamente, come un allunaggio, lei si avvicinò a me e mi portò questo caffè. E, insomma, tu puoi avere tre lauree, lavorare alla NASA, ma in quel momento il caffè tu lo devi bere e crederci tanto. Il miglior caffè della mia vita. Grazie. Grazie, grazie davvero di cuore. Bene. Allora, facciamo un applauso all'autore. Grazie. Tommy, io concludo che vorrei averti in tutti i nostri corsi, incontri, non solo alle coppie ma anche agli operatori, perché l'adozione è difficile veramente da raccontare, a scuola, nelle scuole, cioè l'empatia con cui racconti questo percorso è... Bisogna scuotere nelle scuole. E poi Paola, consenti, mi spezzo una lancia a favore dell'Aivi e in modo particolare faccio una riflessione. Bolzano è una bella città, è una ricca città, dovrebbe usare un po' di più. I dati percentuali non sono dei migliori, dobbiamo lottare tanto. Sono rompere degni questo, della nostra provincia. Dobbiamo rompere questo muro, perché l'adozione è una cosa meravigliosa. Grazie a tutti. Grazie.